Ma quella che si sta purtroppo realizzando ormai da alcuni mesi a questa parte in una delle aree del Sudan chiamata Darfur è sicuramente una delle più grandi emergenze, cosiddetti disastri umanitari di questi ultimi anni. Sebbene se ne parli ancora molto poco, l'entità della tragedia ormai ha raggiunto volumi che sono veramente immensi. Stiamo parlando di oltre 1 milione di persone civili coinvolte in questa guerra che si è sviluppata ormai da un anno a questa parte e che ha provocato, oltre decine di migliaia di morti, anche un movimento di massa della popolazione. Oggi come oggi InterSOS, Organizzazione Umanitaria dell'Emergenza, sta assistendo decine di migliaia di persone in territorio ciadiano, paese confinante proprio con la regione del Darfur, che fuggite dalla guerra hanno cercato protezione in questo paese. Con l'Alto Commissariato dei Rifugiati delle Nazioni Unite, il Programma Alimentare Mondiale e l'Ufficio Umanitario della Commissione Europea abbiamo installato, organizzato i primi campi rifugiati in quella regione. Anche grazie all'intervento del governo italiano e dell'ufficio emergenza del Ministero degli Affari Esteri siamo riusciti a organizzare un cargo, un volo umanitario con il quale abbiamo trasportato materiali di prima emergenza. Oggi però l'urgenza non è solo quella di assistere i rifugiati che dal Darfur provengono in Chad, ma è anche quella di portare un soccorso immediato, urgente, alle oltre 700.000 persone che hanno dovuto abbandonare le loro case incendiate, i loro villaggi distrutti e stanno vagando alla ricerca di cibo, acqua potabile, salute proprio all'interno della regione del Darfur, dove ancora ci sono segnali di scontri, violenze e vendette. Purtroppo proprio in questi giorni si sta avvicinando la stagione delle piogge, una stagione delle piogge che non significherà solo una variazione meteorologica, ma significherà anche impossibilità ad accedere in tutta una serie di villaggi, a una parte delle province del Darfur, nelle quali non esisteranno più strade, piste percorribili e quindi l'urgenza è ancora doppia. Si tratta di una corsa contro il tempo per poter portare elementi di sopravvivenza a questa popolazione che si trova in una condizione oggi tragica da un punto di vista umanitario. I campi rifugiati sono fondamentalmente delle proprie vere piccole città che ospitano fino a 18-20.000 persone. E costituire un campo rifugiati significa nel giro di poche ore, pochi giorni, mettere in piedi i servizi essenziali per rispondere ai bisogni fondamentali della popolazione, dalla distribuzione del cibo alla costituzione di capanne o tende, ai servizi per la comunità, dalla salute all'educazione per i bambini, alle attività di, come dire, gestione del campo nella creazione dei comitati, eccetera. Si tratta di gestire una vera e propria nuova realtà che sorge in brevissimo tempo in mezzo al nulla. Questi campi profughi si trovano a una distanza di circa 50 chilometri dalla frontiera sudanese all'interno del territorio ciadiano proprio per motivi di sicurezza. Si è dovuto decidere di distanziarli dal confine perché il confine oggi si caratterizza ancora dalle incursioni dei cosiddetti Janjaweed. I Janjaweed sono i cosiddetti cavalieri nomadi che in questo periodo sono stati anche utilizzati per effettuare le incursioni violente nei villaggi e fare la cosiddetta piazza pulita, ossia razziare, uccidere, e di fronte ai quali la popolazione ha deciso di fuggire. Una parte è riuscita quindi a fuggire in Chad, dove sono stati accolti dalle organizzazioni umanitarie, tra le quali InterSOS, che oggi gestisce 2 campi profughi che stanno ospitando circa 40.000 persone, su un totale di 200.000 persone che sono entrate in territorio ciadiano. 700.000, 800.000 circa sono quelli che invece ancora, non avendo avuto la possibilità di fuggire al di fuori del Darfur, al di fuori del Sudan, sono alla ricerca di soccorso urgente all'interno di questo territorio. Un territorio nel quale è sorta una guerra in un ambito strano, una guerra che nasce fondamentalmente da un processo di pace. Ormai siamo alla finalizzazione, alla firma del processo di pace che prevede finalmente un accordo tra il Nord Sudan, quello cosiddetto, per semplificare, riconosciuto dall'etnia araba bianca, rispetto al Sud definito cristiano animista. Dopo 30 anni di guerra questo processo di pace sta arrivando al giorno della firma, ma proprio in seno a questo processo che si basa sulla suddivisione delle risorse minerarie e soprattutto petrolifere, la popolazione del Darfur, che è rimasta al di fuori da questa suddivisione, si è quindi sentita emarginata da un discorso di possibilità di sviluppo del proprio paese, ha cominciato a richiedere a un governo sudanese di essere tenuta in considerazione. Di fronte al nulla sono nati i primi movimenti politici che purtroppo si sono tramutati prestissimo in movimenti armati e hanno iniziato una serie di atti di rivolta armata di fronte ai quali i Janjaweed ed il governo sudanese stesso hanno risposto violentemente mettendo a tacere con bombardamenti ed incursioni. Da qui centinaia di migliaia di persone innocenti, a partire dalle donne che fuggono, ai bambini che hanno perso la famiglia, che si trovano oggi in una situazione di disastro.